got a slick chick. See, a neat trick, but she's what makes me tick. Mama, clickety click, a slick chick. The hot heels on for the very first time. The very first time, man oh man, yeah. It was a night. Yeah, yeah. Everybody stopped, we're on a dime to look. Yeah, yeah. Even my heart, my heart got a shook. Yeah, yeah. She's my clickety click, I'll stitch it. She's Miss Rhythm, she's Miss Rhyme. Oh man, she is mine. I said, oh, I got a stick chick. She is a neat chick. But she what makes me tick. Mama, yeah. Clickety click, a stick chick. Yeah, don't you know she's a slick. Mama, I stick a chick. Yeah, yeah. Chick. Yeah, yeah. Mama, yeah, yeah, yeah. Click it, click, I'll fix it. Yeah, yeah, yeah, yeah. I got a crazy little chick. Yeah, yeah. I don't you know she's slick. Ben ritrovati e ben ritrovate a una nuova puntata di Slick Chick, la prima puntata del 2017 di questo nuovo anno. E secondo me iniziamo proprio bene, pimpanti e allegri, perché la puntata di oggi è una puntata particolarmente romantica, affascinante, secondo me soprattutto per gli appassionati di musica vintage, insomma sarà una bella puntata. Puntata che voglio dedicare in particolare a Mr. Booby, visto che a breve sarà il suo compleanno e secondo me ci ascolterà volentieri. Oggi, infatti, parleremo di alcune sessioni di registrazione, in particolare, fatte tanti anni fa da un tizio particolare, in una città particolare, in uno studio particolare, tutto particolare. Però non ce la faccio, non ce la faccio a tenere il segreto fino alla fine, quindi ve lo dico subito, mi sputtano subito, stasera vi racconterò delle Sun Session di Elvis Presley. E nel gennaio del 1950, il lontano 1950, Sam Phillips, un DJ e tecnico radiofonico, fonda insieme a Marion Kisker, un'altra tipa piuttosto conosciuta nel giro radiofonico dell'epoca, la Memphis Recording Service, che praticamente era un servizio di registrazioni, perché insomma, all'epoca non è che c'erano i registratorini e ognuno poteva fare che gli pareva, tantomeno c'erano quegli aggeggi infernali che avete voi giovani. Quindi per registrare le cose bisognava andare in un ufficio dove chiedevi, spiegavi le tue esigenze e loro ti registravano. Per capirsi andavano in giro quelli della Sun a registrare i matrimoni e i funerali, tipicamente. La Memphis Recording Service è la parte ordinaria, quindi diciamo, ed economicamente sostenibile di questo progetto. Si trova al 706 della Union Avenue a Memphis, nel Tennessee, ma nello stesso stabile a condividere lo spazio, sempre fatto chiaramente dagli stessi tipi, si trova lo studio di registrazione, perché chiaramente se non avevi un matrimonio da registrare ma volevi registrare qualcos'altro in studio, c'era bisogno di uno studio di registrazione. La Sun Studio, appunto. Un paio d'anni dopo invece nascerà la Sun Records, anche, che è l'etichetta discografica indipendente. Tutte queste cose le possiamo raggruppare semplicemente sotto il nome Sun generale. La Sun oggi è ormai una leggenda, moltissimi hanno registrato qui, da Roy Orbison, Carl Perkins, Johnny Cash, Jerry Lee Lewis, Howlin' Wolf, Sonny Burgess, Billy Reilly, Ray Harris e 2000 altri che veramente sarebbe lunghissimo dire tutti. Insomma, alla Sun si può dire che sicuramente è nato il rockabilly e per certi versi pure il rock and roll. Ma nei primi anni 50, in realtà pure un po' dopo, la Sun erano di fatto un paio di stanze e un paio di tizi entusiasti, contro ogni aspettativa peraltro, che si divertivano un sacco e facevano le cose con una passione che si coglie anche adesso in ogni loro registrazione che si ascolti. Vi faccio sentire subito un pezzo dalle prime cose della Sun, siamo nel 1951, quindi proprio all'inizio. Questo pezzo dei Jackie Branston and His Delta Cats, che si chiama Rocket 88, Rocket 88, che vedeva un Ike Turner 19enne come compositore alle tastiere. Ike Turner è quello di Ike Tina Turner, era lui, ebbene sì. E questo pezzo è uno stravolgimento assoluto del jazz, del blues, dell'R&B che era arrivato fin lì, e ci sono varie teorie, varie scuole di pensiero, ma diciamo che in tanti lo considerano il primo pezzo rock and roll in assoluto. Women have heard of jalopies, you've heard the noise they make, but let me introduce my new Rocket 88. Yes, it's straight, just one way. Everybody likes my Rocket 88. Baby, we'll ride in style, moving all along. Smart and designed, black convertible top, and the gals don't mind. Sporting with me, riding all around town for joy. Blow your horn, Raymond, blow! In my rocket and don't be late, baby, we're pulling out about half past eight. Going round the corner and hit a fifth, everybody in my car's gonna take a little nip. Move on out, oozing and cruising along. Sam Phillips è un tipo bizzarro, si potrebbe dire così, soprattutto per l'epoca. Ama il delta blues, l'R&B, il bluegrass e in realtà tutto quello che vuole fare è dare la possibilità agli afroamericani di registrarsi i propri singoli in un momento in cui questa cosa non è assolutamente scontata. Siamo agli inizi degli anni 50 e incidere un disco non è proprio alla portata di chiunque, figuriamoci dei neri, e devi generalmente offrire l'idea di ricchi profitti se vuoi che qualche casa discografica investa dei soldi su di te anche soltanto per farti registrare un demo. Ecco, in realtà la Sun non è assolutamente così. Alla Sun infatti si fa fatica a tirare avanti, figuriamoci se si fanno profitti. All'apice del successo si dice che Philips si facesse circa 60.000 miglia all'anno per promuovere i propri artisti nelle stazioni radio e dai distributori, ma niente di tutto ciò gli fruttava soldi, come poi vedremo in seguito. Per dare un'idea del personaggio, nel 1955, quindi pochi anni dopo aver già fondato la Sun, Sam Phillips apre una stazione radio chiamata Where. Vengono fatte diverse audizioni e colloqui perché si dovevano assumere DJ e personale vario. Ai colloqui si presentano diverse giovani donne, tra gli altri, convinte che ci sia un unico posto a disposizione come annunciatrice, come del resto si usava a fare in tutte le altre radio, che le donne venivano usate o da segretarie o come annunciatrici, ma di fatto ce n'era una sola di annunciatrice nel radio, perché insomma voci femminili non ce ne dovevano essere troppe, ecco, non esageriamo. In realtà tutte queste donne accorse scopriranno poi che la WER è la prima All Girl Radio, ovvero la prima stazione radio in America in cui tutte le posizioni lavorative sono occupate da donne. E boh, siamo in America nel 1955, vi ricordo, e bisognerebbe chiedere a Trump adesso, nel 2016, quanto questa cosa... No, siamo già nel 2017, quanto questa cosa sia banale e ovvia, insomma. E questo giusto per darvi un'idea, ma andiamo avanti. Well, I don't care if the sun don't shine. I get my loving in the evening time when I'm with my baby. Well, it ain't no fun with the sun around. I get going when the sun goes down and I'm with my baby. Well, that's when we're gonna kiss and kiss and kiss and kiss, and we're gonna kiss some more. Well, who cares how many times we kiss, 'cause at a time like this, who keeps score? Well, I don't care if the sun don't shine, I get my loving in the evening time when I meet my baby. And the kids and the kids and the kids, and we're gonna kiss some more. Who cares how many times we kiss, 'cause at a time like this, who keeps score? Well, I don't care if the sun don't shine, I get my loving in the evening time when I meet my baby. And it don't matter if the sleet or snow, a drive-in's cozy when the lights are low, and I'm with my baby. Makes no difference if the rain comes down, I don't notice when she's around, oh boy. What a baby. Well, that's when we're gonna kiss and the kiss and the kiss and the kiss, and we're gonna kiss some more. Well, one kiss from a baby doll makes me ha, more. Well, I don't care if the sun don't shine, I get my loving in the evening time when I meet my baby. We're gonna kiss and kiss and kiss and kiss, and we're gonna kiss some more. Well, one kiss from my baby doll makes me holler more. Well, I don't care if the sun don't shine, I get my loving in the evening time when I'm with my baby. Questa era I Don't Care If The Sun Don't Shine di Mac David nella versione rifatta da Elvis Presley, un giovanissimo Elvis Presley, proprio alla Sun nel 1954. E tutti i pezzi che vi farò sentire adesso, da qui in poi, di Elvis, sono tutti delle Sun Session. Tra i vari musicisti che passano dalla Sun, tra un po' tutti quelli che abbiamo detto prima, insomma un bel po' ce ne sono oltre a quelli che abbiamo citato, a un certo punto nel 1953 ci sono anche i Prisoners, ci sono un quartetto di afroamericani a cui viene dato un permesso per uscire dal carcere per registrare il loro singolo Just Walking in the Rain, perché sì, erano tutti in carcere e per registrarlo gli è toccato avere e ottenere un permesso, che ovviamente soltanto per quel giorno in cui dovevano registrare il singolo. Il singolo ha un buon successo e l'episodio, che boh, evidentemente era abbastanza curioso, finisce sui giornali locali e si dice che sia così, in questa maniera, che un diciottenne di Memphis viene in mente di provare ad andare alla Sun per registrare il suo primo pezzo. E questo diciottenne è appunto Elvis Presley. E vabbè, in realtà i pezzi che registra sono altri, e che sarebbe veramente un casino andare a recuperare, ma questi sono quelli che poi ha registrato in seguito. Well, I heard you, I'm good to rock it tonight. She'll know I'm a mighty, mighty man. I heard the news, there's good rockin' tonight. I say, oh, meet me in a hurry behind the bar. Don't you be afraid, I'll do you no harm. I want you to bring along my rockin' shoes, cause tonight I'm going to rock away all the blues. I heard the news, there's good rockin' tonight. Questo era Good Rockin' Tonight di Roy Brown, rifatto appunto sempre da Elvis, sempre nel 1954. La storia è questa. Il 18 luglio del 1953 alla Sun Studio entra sto ragazzino e chiede se gli fanno registrare un 45, un disco, 7 pollici, da regalare alla mamma per il suo compleanno. Cuore di mamma. Alla Sun funzionava così: tu pagavi qualche dollaro, per la precisione pare 3,25 dollari, insomma direi a buon mercato, entravi nello studio, Philips o la Kisker ti aiutavano e tu registravi il tuo pezzo e te ne uscivi con il disco. E insomma, Elvis registra un paio di pezzi, due ballatone diciamo, e ad ascoltarlo c'è la Kisker che trova ci sia qualcosa di bello nella voce di questo giovane camionista, perché faceva il camionista, ebbene sì, e decide di registrare anche su nastro per tenerne una copia avveduta la Kisker. Così passa la registrazione a Philips e piano piano riesce a convincerlo a fissare una seconda sessione. Philips fa una prima audizione a Elvis nel 1954, quindi 4 anni dopo, in realtà, insomma, un po' di tempo, 4 anni dopo che avevano aperto la Sun, e un anno dopo che Elvis si era presentato per la prima volta negli studios della Sun. Lui gli suona un po' di robe varie, più che altro ballate, perché gli piacevano un sacco questi lentoni. Phillips non si convince, finché a un certo punto Elvis suona il pezzo che lo impressiona e gli fa capire tutto quanto e si può dire da inizio a un sacco di cose. Questo pezzo è That's Alright Mama, ed è impressionante sentire la differenza con il pessimo Elvis decadente degli anni 70. Questo semplicissimo pezzo rimarrà, credo, per sempre uno dei miei preferiti di tutta la musica, di tutti i generi e di tutti i tempi. Well, that's all right, mama. That's all right for you. That's all right, mama. Just any way you do, that's all right. That's all right. That's all right. Told me, Papa done told me too. Son, that gal you fooling with, she ain't no good for you. But that's all right. That's all right. That's all right, mama. Anyway, do. Faccia di Sam Phillips quando Elvis con la sua chitarrina apre la bocca e gli escono queste cose dalla bocca con questo suono incredibile e soprattutto per l'epoca e secondo me appunto gli è calata un po' la mascella e ha detto ok, va bene, registriamo tutto, almeno secondo me è andata così ed è così che me la immagino. In un'intervista a Phillips disse di Elvis che sia lui che Roy Orbison, un altro grande che registrava in quel periodo, erano in grado di fare delle ottime ballate romantiche, ma che ascoltandole disse, cioè capì che se avesse scelto di registrare delle ballate come singoli di punta, noi non avremmo mai potuto sentire il vero Elvis. E così disse a se stesso: non puoi farlo, Sam, non è così che deve uscire Elvis, non è questo Elvis. E quindi decise di non registrare i ballatoni, i lentoni che tanto invece Elvis amava e che probabilmente erano anche più adatti al suono di quegli anni, più rassicuranti. Beh, del resto poi sono stati usati per decenni dopo dall'RCA e da tutti gli avvoltoi che sono venuti a seguire per far fare soldi più che a Elvis, insomma, agli altri che gli stavano intorno. Però dobbiamo dare atto che invece alla Sun capirono che c'era qualcos'altro sotto e quindi scelsero di non far uscire queste cose, ma farne uscire ben altre. Keep shining bright, blue moon. Keep on shining bright. She's gonna bring me back on my baby tonight. Blue moon, keep shining bright. I say blue moon, I can't forget to keep on shining. Shine on my best coat and let me blue. I say blue moon, I can't forget to keep on shining. Keep on shining. Lord, it's gonna let me blue. Infatti fu così, e l'Elvis delle Sun Sessions appunto è un Elvis sporco, pericoloso, estremamente sensuale. Quasi sicuramente Elvis non aveva la più pallida idea di cosa stava facendo e di cosa gli usciva dalle viscere, ma evidentemente chi gli stava intorno sì, lo sapeva. Del resto è sempre stato così, insomma, che lui era piuttosto, almeno l'idea che mi sono fatta io era che lui fosse abbastanza ignaro di tutto, era un po' un bamboccione che non sapeva bene cosa stava succedendo, ma nel bene e nel male chi aveva intorno lo sapeva un bel po'. Questo pezzo che abbiamo sentito ora era Blue Moon of Kentucky, originario di Bill Monroe, rifatto anche questo nel 1954, appunto proprio in questa prima session. Tutta la produzione di Elvis nelle Sun Sessions è un'interpretazione della tradizione blues, R&B e del primissimo rock and roll. C'è chi dice che Elvis non ha inventato niente, e questo è probabilmente vero, ma non credo che si tratti, cioè che in questo caso si tratti di chi ha inventato cosa, di chi è arrivato per primo. Si tratta di un tipico ragazzo delle bianchissime profondità americane, dalla cui bocca esce qualcosa di completamente nero, imbastardito in qualche maniera, e blues, tantissimo blues. E questa cosa succede senza che ci sia una costruzione, una preparazione, uno studio, succede e basta, in modo assolutamente naturale e istintivo, come si sente tanto in questi pezzi. Certo, poi è arrivato il colonnello Parker, l'RCA, Hollywood, tutto il resto, e tutto è stato ucciso. Ma per ora no, per fortuna, per ora siamo ancora nello studio della Sun. Non a caso stiamo nello studio della Sun e ci rimaniamo ad ascoltare un ragazzino camionista che suona la sua chitarra e si dimena come un negro. Oh well, I woke up this morning and I looked out the door. I can tell that old milk cow by the way she looks. Holy fellas, that don't move me. Let's get real, real gone for a change. Well, I woke up this morning and I looked out the door. I can tell that old milk cow, I can tell the way she low. Now if you saw my milk cow, he was rockin' on home, home. I ain't had no milk and butter since that cow's been gone. Well, I tried to reach her right day by day. I do a little prayer, boy, get out on your knees, pray, boy, you're gonna need. You're gonna need your loving daddy's help someday. And you're gonna be sorry for treating me this way. Oh, let's milk it. Well, please, don't ask some when your baby's not around. Well, I've tried everything to get along with you. I'm gonna tell you what I'm gonna do. I'm gonna quit my crying. I'm gonna leave you alone. If you don't believe I'm leaving, you can count the days I'm gone. I'm gonna leave. You're gonna need your love and daddy's help someday. And you're gonna be sorry for treating me this way. Sentito erano rispettivamente Milkow Blues Boogie, questo registrato nel 55 in una seconda sessione, e You Are Heartbreaker, anche questo nel 1955. Quando si dice che alla Sun è nato il rockabilly, non è soltanto perché di lì sono passati un po' tutti i grandi musicisti, ma anche perché la Sun è quella che ha inventato quel tipico strano sound del rockabilly, quel suono riverberato un po' aggressivo che è difficile da descrivere a parole, ma è inconfondibile all'orecchio. Su questo ovviamente si sprecano le teorie, c'è chi dice sia stato tutto merito di Sam Phillips, chi dice che semplicemente alla Sun avevano degli amplificatori rotti e non se ne erano accorti o non avevano i soldi per ripararli. O c'è anche chi dice che gli amplificatori in realtà venivano riempiti con dei fogli di giornale. Boh. Where I have left, she's gone. Where I have left all alone. Well, he's trying to tell me so, but how was I to know? Why she was not one for me. You told me all along. You're right, our love was wrong. But now I've changed my mind, cause she broke the tie of mine, and I know that she never cared for me. Just what she do, like it's not so smart. Are you trying to tell me all alone? You don't break my heart. I'm left she's gone. You're right, and I'm left all alone. Well, she's gone, I know not where, but now I just don't care. All for now, all I'm for you. I'm Left, You're Right, She's Gone, originaria di Stan Kessler, William Taylor, anche questa del 1955. Mi sembra un buon momento per ricordarvi i nostri social Wombat, ovvero il sito di Radio Wombat, wombat.noblogs.org, Twitter, profilo Twitter, twitter.com/radiowombatfi, la pagina Facebook, facebook.com/radio-wombat-firenze, e la casella di posta, postawombat@insiberia.net, a cui vi ricordo dovete far piovere assolutamente in maniera incontrollata tutte le vostre, oltre alle vostre mail, quello che vi pare, ma soprattutto le vostre proposte per il logo nuovo della nostra radio, perché se siete degli ascoltatori veramente fedeli, se no siete delle merde, ma se siete degli ascoltatori fedeli sapete ormai che abbiamo lanciato questo contest con ricchi premi, incredibili onori di tutto, per ottenere finalmente da voi un fantastico logo per Wombat Radio. Quindi mi raccomando, invadete la nostra casella di posta di piccoli pupazzetti di Wombat saltellanti che dicono cose e fanno cose strane. Inoltre vi ricordo anche che le nostre dirette sono tutte riascoltabili poi in podcast in differita quando vi è più comodo. Basta andare sempre sul nostro sito wombat.blogs.org, dove troverete alla pagina podcast tutti i bellini divisi per trasmissione, tutte le nostre varie puntate. Quindi se vi siete persi qualcosa, siete rimasti indietro, potete andare a riconsultare tutto e a rimettervi in pari. Certo è che la diretta ha tutto un altro fascino e quindi insomma cioè ascoltarvi la vostra trasmissione preferita sotto la doccia la mattina, sì, ok, molto bello, ma insomma la diretta volete mettere. Quindi vi sproniamo tutti a memorizzare il nostro palinsesto e ascoltarci in diretta, così ci sentiamo anche meno scemi che siamo a un microfono e non ci sta ascoltando nessuno. Ma proseguiamo con la nostra scaletta dedicata alle Sun Session. Quelle che stiamo sentendo, infatti, fino adesso, a parte il primo pezzo, sono le registrazioni di queste sessioni di cui stavamo parlando alla Sun Studio, tutte incise tra il 1954 e il 1955 a Memphis, appunto, nel Tennessee. Insieme a Elvis, evidentemente, che è alla voce e alla chitarra, ci sono anche, vale la pena di dirli, Scotty Moore, sempre seconda chitarra, Bill Black, contrabbasso, DJ Fontana, alla batteria, e occasionalmente in alcune tracce, soltanto in un paio di tracce, Jimmy Lott, alla batteria, e oppure, sempre alla batteria, Johnny Bernero. Il pezzo che abbiamo sentito prima, ve l'ho già detto come si chiama, e il prossimi due che vi faccio sentire sono Baby Let's Play House, sapete, del 1955, e dello stesso anno la, beh, abbastanza famosa Mystery Train. A pink Cadillac, but don't you be nobody's fool. And now, baby, come back, baby, come. Come back, baby, come. Come back, baby, I wanna play house with you. Now, listen, let me tell you, baby, what I'm talking about. Come on back to me, little girl, so we can play some house. And now, baby, come back, baby, come. Come back, baby, come. Come back, maybe I won't play house with you. All in the house, kid. Now this is one thing, baby, that I want you to know. Come on back and let's play a little house so we can act like we did before. But so baby, come back, baby, come. Come back, baby, come. Come back, baby, I wanna play house with you. Hit it. Yeah. Hey, listen to me, baby. Try to understand. I'd rather see you dead, little girl, than to be with another man. And then, baby, come back, baby, come. Come back, baby, come. Come back, baby, I won't play out with you. Oh, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, come back, baby, I wanna play house with you. Notato, ma a me piace un sacco tutti questi ticchettii del contrabbasso, dell'archetto il contrabbasso è una cosa, un'altra di quelle cose tipiche del rockabilly, che secondo me nelle sound session si sentono particolarmente bene e sono particolarmente belle. E se fossi una personcina veramente seria, vi avrei fatto sentire tutte queste cose su vinile, ma non mi sono organizzata per bene. D'altronde io ho questi pezzi in vinile, ma non ho le versioni originali della Sun Session, perché costano un sacco di soldi. E certamente se quando diventerò ricca e famosa grazie a questa radio, allora potrò permettermi di comprarmi i vinili originali delle Sun Session, e a quel punto vi prometto solennemente che ve li farò riascoltare integralmente. Ma torniamo alla nostra Sun e alle nostre Sun Session in particolare. Via via vennero pubblicati i singoli, cioè i 45 giri, e solo nel 1976, in realtà un sacco di tempo dopo, viene pubblicata una raccolta chiamata appunto Elvis Sun Session, pubblicata dalla RCA. Non dalla Sun, per l'appunto. Questo perché? Perché la casa discografica, la RCA, pagò $35,000 alla Sun Records per l'acquisto del contratto di Elvis. Fate voi i conti se è stato un buon affare oppure no. E, ora, tanto per cambiare, siccome in realtà la Sun, cioè la Sun Records ha fatto, appunto, ha registrato tantissimi singoli e sono uscite diverse raccolte a questo giro pubblicate dalla Sun, fortunatamente non dall'RCA o da altri squali, e non solo di Elvis, ma un po' di tutti quelli che hanno registrato nello studio. Io vi consiglio di andarvela a spulciare se vi interessa e vi piace l'argomento, perché sono tutte veramente belle. Tra l'altro, anche rispetto alle pubblicazioni poi future dei singoli musicisti, le registrazioni che fecero alla Sun secondo me sono sempre le più belle e le più affascinanti. Ci sono anche delle raccolte non di singoli musicisti, ma che mettono un po' insieme tutto quel periodo e tutto quell'ambiente della Sun, dove c'è tutti i mostri sacri che vi possono venire in mente sul genere rockabilly e rock and roll original, e tra cui Jerry Lee Lewis. Ve lo cito perché, tanto per cambiare, adesso vi faccio sentire un altro pezzo contenuto sempre nelle Sun Sessions, I Forgot to Remember to Forget. Però in realtà questa volta ve lo faccio sentire non nella versione di Elvis, perché basta, se no troppo Elvis, cambiamo un attimo, ma nella versione di un altro grande habitué della Sun che vi ho citato adesso, Jerry Lee Lewis. I forgot to remember to forget her. I can't seem to get her off my mind. I thought I'd never miss her, but I found out somehow. I think about her almost all the time. The day she went away, I made myself a promise that I'd soon forget we'd ever met. But something sure is wrong, 'cause I'm so blue, so lonely, I forgot to remember to forget. I'd soon forget me ever there. It seems there's something wrong. I'm so blue, so lonely. I forgot to remember to forget. Poi sì, è arrivato a un certo punto il colonnello Parker, un orribile viscido manager, che ha convinto l'ingenuo e imbambolato Elvis a mettersi completamente nelle sue mani. Il colonnello ne ha fatto la sua creatura, possiamo dire, l'ha sbiancato, conciato, sedato, neutralizzato e l'ha fatto giocare con il cinema in modo anche orribile spesso, e mai, proprio mai, gli ha permesso di ritrovare quel suo pericoloso sound che aveva prima alla Sun. L'Elvis noto ai più è quel penoso clown gonfio di psicofarmaci che fa l'occhiolino alle vecchie tardone, è una parodia di se stesso, di quell'America in realtà così lontana da quelle che erano state le sue origini. So sorry, 'cause I made you cry. I'll never let you go, 'cause I love you. So please don't ever say. Stars would tumble down beside me. The moon would hang its head and cry. My arms would never. If we should ever say goodbye, well, let you go, 'cause I love you. Prima del disastro però ci fu ancora un lampo di quello che era e che sarebbe potuto essere. Ci fu un concerto all'NBC, uno show, uno spettacolo televisivo, un concerto storico dopo diversi anni di decadenza oggettiva. Era il 1968, il rock and roll era bello che sepolto e adesso c'era il beat, la controcultura hippie, Beatles, i Bee Gees. Si dice che Elvis fosse terrorizzato al pensiero del rientro sulle scene, ma che per la prima e unica volta, forse, riuscì a imporre al colonnello uno show televisivo, una cosa fatta come la voleva lui, insomma, alla vecchia maniera. Elvis arriva sul palco degli studi televisivi completamente vestito di pelle nera. È un Elvis affascinante, improvvisamente lucido, autoironico, perfettamente consapevole, anche parecchio divertente in realtà. Si trova l'intero video di questo concerto anche su YouTube banalmente, e vi consiglio di guardarvelo perché è proprio divertente. E per un attimo sembra che niente sia cambiato. Siamo di nuovo alla Sun, accanto a lui ci sono i suoi compagni d'avventura di un tempo, e quello che esce fuori è di nuovo quel suono pericoloso e conturbante che poi non ritroverà mai più. È un concerto che ha un po' il sapore di un addio, con tutta la nostalgia disperata di chissà cos'è stato e cosa sarebbe potuto essere. Chapeau, insomma. I've been traveling over mountains, even through the valleys too. Well, I've been traveling night and day, I've been running all the way, baby, trying to get to you. Ever since I read your letter, where you said you love me true, well, I kept traveling night and day, I kept running all the way, baby, trying to get to you. Trying to Get You, originariamente registrata appunto nel corso delle Sensation, anche questa nel 1956, e in questa versione appunto live all'NBC, come si diceva. Tra l'altro molto interessante, almeno per me, è stato vedere questo live all'NBC, la registrazione video, perché è una cosa che mi ha sconvolto, è vedere che, vabbè, era una trasmissione televisiva, ok, ma c'era tutta sta gente intorno seduta e uno che si fosse dimenato, ma un minimo, proprio un attimo, niente, tutti fermi, immobili, impassibili. Ogni tanto c'era qualche tipo che faceva gli urletti, ah, quelli che avete sentito, ma a parte questo, tutti fermi, immobili, cosa che secondo me è veramente incomprensibile. Ma d'altra parte, insomma, erano altri anni e chissà, boh, io non c'ero, chissà. Ma abbiamo parlato un po' di cosa ne è stato di Elvis, del resto un po' tutti lo sappiamo, e però cosa ne è stato di Sam Phillips e della Sun? La Sun, piano piano affogata nei debiti, nonostante tutti registrassero con loro, poi erano altri in realtà a farci i soldi, e arrivava sempre uno squalo, un avvoltoio, a seconda dell'animale che preferite, a mangiare tutto. Phillips fa di tutto per mantenere in piedi la cosa, la baracca, ma viene divorato dall'alcol e dalla tristezza. Viene anche ricoverato a un certo punto in un ospedale psichiatrico e sottoposto a elettroshock. Continuerà in qualche maniera a sopravvivere,

questo sarebbe un ottimo pezzo per mandarvi a dormire e darvi la buonanotte, ma invece no, perché ce n'è ancora un altro. Ma prima di lasciarvi all'ultimo pezzo di saluto, vi ricordo il palinsesto di Wombat Radio, della vostra radio ormai preferita. Palinsesto da prendere sempre un po' con le pinze, perché sì, siamo un po' così disagiati e disadattati, ma più o meno l'orario è sempre quello. Se non ci sentite vuol dire che stiamo per iniziare, insomma. Abbiamo fatto un po' i birichini durante le feste, qualcuno di noi ha saltato, ma ad adesso promettiamo ci siamo, giuriamo. Il lunedì alle 16.30 a Fuoco alle Polveri, alle 21 la revancia. Il martedì alle 19 il rovescio della medaglia, anche se la prossima settimana se la prenderà di pausa, come gli affezionati sapranno. Mercoledì alle 21 Slick Chick, per l'appunto. E cambio di programma, infatti dopo di me adesso non ci sarà 8 Hertz, perché 8 Hertz da questa settimana si sposta al giovedì dopo l'Accademia della Brusca. Quindi alle 19 l'Accademia della Brusca, a seguire alle 21 indicativamente più o meno 8 Hertz. Il venerdì alle 21.30 Uru, il sabato alle 22.30 Tonight Alive con durata all'infinito. La domenica alle 16.30 La Fuga del Gatto e alle 17.30 indicativamente, che poi sono sempre le 18.15 perché io vado per le lunghe in genere, 3.000 siepi. Questa è per ora la nostra settimana, presto avrete probabilmente qualcosa di più, vi anticipo che sta per calcare le scene una nuova trasmissione dedicata al Soul, Northern Soul, ma non vi dico di più, ma sappiate che a breve la avrete. E basta, vi saluto con questo e vi lascio con questo pezzo, non più di Elvis, ma nella versione originale, perché questo pezzo, Just Because, anch'esso è contenuto nelle Sun Session del 1956, sempre di Elvis, ma quella che vi faccio sentire è la versione, per una volta, originale da cui è stato tratta, che è dei Shelton Brothers, Just Because. Because you think you're so pretty, just because you think you're so hot, just because you think you've got something that nobody else has got. Though you made me spend all my money, then you laughed and called me old Santa Claus. But I'm telling you, honey, I'm leaving you, because, just because. Just because you think I'll be lonesome, just because you think I'll be blue, just because you think I'll be foolish to stay at home and wait for you. Though you made me drop all my girlfriends, then you laughed and called me Mr. St. Claus. But I'm telling you, baby, I'm through with you, because, just because. summer day you'll be blue. When old Santa Claus won't be near you to pay the bills for you. Though you may say that I'm foolish, but there just ain't no Santa Claus. I'm telling you, good girl, I'm through with you, because, just because.